Il terzo anello ad alta voce. Roberto Pedicini legge Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Traduzione di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. Introduzione di Simone Argentieri. Il 1886, che è l'anno nel quale Stevenson dà alle stampe Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, un successo straordinario che ancora non conosce declino, è anche l'anno in cui Sigmund Freud comincia a pubblicare i suoi studi sull'isteria. L'avvento sulla scena letteraria e nell'immaginario collettivo della doppia personalità di Jekyll e Hyde coincide dunque con la crisi dell'io che la psicoanalisi sancisce. L'io cosciente, l'orgoglioso e compatto protagonista di tanti secoli di letteratura e filosofia, diviene frammentato, eccentrico. O, per dirla secondo la nota metafora freudiana, è solo l'io cosciente la punta dell'iceberg, mentre spetta all'inconscio l'enorme massa sconosciuta subacquea sottostante. Ma Stevenson addirittura precorre i tempi, bisognerà infatti aspettare il 1914 per leggere Il doppio di Otto Rank, allievo prediletto di Freud di prima generazione, e addirittura il 1919 perché appaia il saggio di Freud stesso, Il perturbante, che esplora il significato profondo tra arte e follia del doppio. A mio avviso, già da fine Ottocento comunque c'è una vera epidemia di doppi, nella narrativa, nel teatro, nella poesia, nell'arte figurativa, perfino nella musica. Doppi in tutte le loro variabili forme, e così vediamo protagonisti che incontrano il loro alter ego come fantasmi, gemelli, ombre, ritratti, immagini del sogno o dello specchio o del delirio. Però in questa folla la coppia Jekyll-Hyde rimane, a mio parere, l'esempio insuperato della doppia personalità. Infatti questa coppia la conosciamo tutti, la conoscono anche coloro che magari non hanno mai letto il racconto di Stevenson e li hanno incontrati solo al cinema in una delle tante versioni. La doppia identità Jekyll-Hyde è così divenuta la metafora non solo della grande psicopatologia, ma anche dei conflitti, contraddizioni di tanti umani qualunque. La qualità perturbante del doppio, possiamo precisare, si sviluppa in due tempi. Una parte sconosciuta di sé si rivela, e inizialmente c'è il senso narcisistico dell'onnipotenza, dell'esaltazione di una identità, per così dire, incrementata. Ma ben presto, e Hyde non fa eccezione, si verifica un viraggio. Il doppio diviene autonomo e si trasforma in persecutore. Si trasforma in un nemico che porta il soggetto alla disperazione e alla morte. Vorrei fare a questo punto un'avvertenza ai nostri ascoltatori. Non troverete durante la lettura i personaggi femminili, né la tenera fidanzata di Jekyll né la sensuale amante di Hyde. Quelle infatti sono creazioni posteriori, teatrali e cinematografiche. Per Stevenson invece, egli si è reso merito, il male incarnato da Mr. Hyde non è il sesso. Questa sarà una lettura posteriore. Dice in un'intervista rilasciata a suo tempo: Hyde è l'aggressività pura, primitiva, l'istinto animalesco, utilizzando quindi più volte l'analogia con lo scimmione nostro antenato. Per contro c'è una pagina, a mio avviso, deliziosa e ironica sull'avvocato Hutterson, che dice: ama il vino ma beve gin, che pur desiderandolo non va al teatro da 20 anni e trascorre le sue serate in solitudine solenne leggendo un pesante tomo di teologia. Leggo due righe di commento di Stevenson al suo celeberrimo racconto. A proposito di Hyde dice: questi non era, buon Dio, un semplice voluttuoso. Non c'è alcun male nella voluttà. Egli è l'essenza della crudeltà e della malizia e dell'egoismo e della codardia. Ed è tutto questo il diabolico nell'uomo, non il semplice desiderio di amare una donna intorno al quale si fa tanto scalpore. In polemica con l'ipocrisia del suo tempo, Stevenson non si vergogna infatti di ammettere che il male può essere attraente e la virtù noiosa. E a proposito della creatura Hyde dice che sarà pure un mostro, ma che, virgolette, il suo amore per la vita è stupefacente, chiuse virgolette. A conclusione della mia prefazione voglio aggiungere che la scrittura di Stevenson è non solo fantasiosa, ironica e folgorante, ma anche una straordinaria qualità evocativa, perfetta per essere ad alta voce da Roberto Pedicini, che adesso vi leggerà appunto Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Storia della porta. Utterson, il legale, era un uomo dal volto ruvido, mai illuminato da un sorriso. Di poca e fredda, impacciata conversazione, restiò i sentimenti. Era lungo, magro, grigio, accigliato, e tuttavia amabile in qualche modo. Ai pranzi tra amici, e quando il vino era di suo gusto, qualcosa di eminentemente umano traspariva dal suo sguardo. Qualcosa, certo, che non arrivava mai a tradursi in parole, ma che neppure si limitava ai muti simboli dell'appagamento conviviale, manifestandosi anzi più spesso e apertamente negli atti della sua vita. Era austero con se stesso, beveva gin quando era solo per mortificare una propensione ai vini dannata, e benché il teatro gli piacesse non ci metteva più piede da 20 anni, ma era di provata tolleranza con gli altri, considerando a volte con stupore, quasi con invidia, l'alta pressione di spiriti vitali che li portava a traviarsi. Per cui, in qualsiasi estremità, inclinava a soccorrere piuttosto che a riprovare. «Inclino all'eresia di Caino», diceva curiosamente. «Lascio che il mio fratello se ne vada al diavolo come meglio crede». Con questa disposizione d'animo gli accadeva non di rado di restare l'ultimo conoscente stimabile, l'ultima influenza salutare nella vita di uomini incamminati per l'ascesa. E nei suoi rapporti con costoro, finché i rapporti duravano, si guardava dal mostrarsi minimamente cambiato. Certo, per un uomo come Utterson, poco espansivo nel migliore dei casi, non doveva essere difficile comportarsi così. La stessa amicizia per lui sembrava fondarsi su un senso di generica, benevola disponibilità. Ma è proprio delle persone modeste accettare bella e fatta, dalle mani del caso, la cerchia delle proprie amicizie. E questo appunto era il caso di Utterson. I suoi amici erano conoscenti di lunga data o persone della sua stessa famiglia. I suoi affetti crescevano col tempo, come l'edera, e non implicavano una particolare idoneità del loro oggetto. L'amicizia che lo legava a Richard Enfield, il ben noto uomo di mondo, era senza dubbio di questa specie, giacché Enfield era suo lontano parente. Ma che cosa quei due trovassero l'uno nell'altro, o che interessi potessero avere in comune, restava un mistero per molti. A detta di chiunque li incontrasse nelle loro passeggiate domenicali, non scambiavano una parola, apparivano singolarmente depressi e salutavano con visibile sollievo la comparsa di un amico. Con tutto questo, tenevano entrambi in grandissimo conto quelle loro escursioni, le consideravano il più bel gioiello della loro settimana, e per non rinunciarvi trascuravano non solo ogni altra occasione di svago, ma perfino gli impegni più seri. Capitò che i loro passi li conducessero, durante uno di questi vagabondaggi, a una certa strada di un popoloso quartiere di Londra. Era una strada stretta, e di domenica ciò che si dice tranquilla, ma animata di commercio e di traffico per il resto della settimana. I suoi abitanti guadagnavano bene, a quanto sembrava, e rivaleggiando nella speranza di fare ancora meglio, dedicavano le eccedenze a una ghindata, civettuola mostra di prosperità. Le botteghe su entrambi i lati avevano un'aria d'invito, come una doppia fila di sorridenti commesse. Per cui anche di domenica, quando velava le sue floride grazie e si presentava relativamente spoglia di traffico, la strada brillava, in contrasto con le sue squallide adiacenze, come un fuoco nella foresta. E con le sue imposte verniciate di fresco, i suoi ottoni ben lucidati, la sua aria gaia e pulita, attirava e seduceva subito l'occhio del passante. A due porte da un angolo, venendo da ovest, la linea delle case era interrotta dall'entrata di un vasto cortile. E giusto a fianco di questa entrata, un certo tozzo, sinistro edificio sporgeva sulla strada il suo frontone triangolare. Benché alto due piani, questo edificio non aveva finestre, solo la porta a pian terreno, un po' sotto il livello della strada, e una cieca facciata dall'intonaco scolorito. Tutto l'insieme del resto portava i segni di un prolungato e sordido abbandono. La porta, senza batacchio né campanello, era screpolata e stinta. Vagabondi trovavano riparo nel suo vano e sfregavano fiammiferi sui pannelli. Bambini tenevano bottega sui gradini. Lo scolaro provava il suo temperino sulle modanature e nessuno era più comparso da forse una generazione a scacciare quegli indesiderabili visitatori o riparare i loro guasti. Enfield e il legale camminavano sull'altro lato della strada, ma quando furono lì davanti, il primo alzò il bastone a indicare. «Avete mai notato quella porta?» chiese. E alla risposta affermativa dell'altro aggiunse: «È associata nella mia memoria a una storia molto strana». «Ah sì?» disse Utterson con un leggero cambiamento di voce. «Che storie?» «Bene», disse Enfield, «ecco come andò. Stavo rincasando a piedi da un posto in capo al mondo, verso le 3 di una nera mattina d'inverno. E la mia strada attraversava una parte della città dove non c'era letteralmente altro da vedere che i lampioni. Strada dopo strada, e non un passante, tutti a dormire. Strada dopo strada tutto acceso, come per una processione, e tutto vuoto come una chiesa. Finii per trovarmi, a forza di ascoltare e ascoltare, in quel particolare stato d'animo per cui si comincia a desiderare vivamente la vista di un poliziotto. Tutto a un tratto vidi due figure. Una era un uomo di bassa statura, che veniva di buon passo e a testa china dal fondo della strada. L'altra era una bambina di 8 o 10 anni, che arrivava di corsa da una traversa. «Bene, signore», proseguì Enfield, «fu abbastanza naturale che i due sull'angolo si scontrassero con violenza. Ma qui viene la parte orribile della cosa, perché l'uomo calpestò tranquillamente la bambina caduta e continuò per la strada, lasciandola a terra che urlava. A raccontarlo è niente, ma fu infernale da vedere. Non sembrava neppure un uomo, ma un qualche dannato Juggernaut. Io con un grido mi misi a correre, afferrai il mio gentiluomo per il colletto e lo riportai dove c'era già un gruppo di persone intorno alla bambina urlante. Lui rimase del tutto indifferente, non oppose la minima resistenza. Mi dette una sola occhiata, ma un'occhiata così orribile da farmi gelare il sangue. Le persone accorse erano i familiari della piccola che, a quanto risultò, era stata spedita a chiamare un medico. E poco dopo sopraggiunse il medico stesso. Bene, secondo quest'ultimo, la bambina non s'era poi fatta niente, era più spaventata che altro. Per cui tutto, insomma, avrebbe potuto finire lì, se non fosse stato per una circostanza curiosa. Io avevo aborrito il mio gentiluomo a prima vista, e anche la famiglia della bimba, come è naturale, lo aveva subito preso in odio. Ma quello che mi colpì fu l'atteggiamento del medico, o farmacista che fosse. Era, spiegò Enfield, il classico speziale risecchito, senza colore né età, con un forte accento di Edimburgo e l'emotività di un ciocco di legno. Ebbene, signore, gli accadde lo stesso che a noi. Lo vedevo impallidire di nausea ogni volta che guardava quell'uomo e tremare dalla voglia di ucciderlo. Io capivo ciò che sentiva, come lui capiva ciò che sentivo io. Ma non essendo questione di uccidere nessuno, ripiegammo su un'altra soluzione. Avremmo sollevato uno scandalo tale, dicemmo al nostro prigioniero, da rendere infame il suo nome da un capo all'altro di Londra. Se aveva amici o una reputazione da perdere, li avrebbe perduti. Mentre noi stessi, d'altra parte, lo svergognavamo e bollavamo a fuoco così, dovevamo cercare di tenere a bada le donne, che gli si avventavano contro come arpie. Non ho mai visto un cerchio di facce più inferocite. E lui lì in mezzo, con quella specie di ghigno nero e freddo. Era anche spaventato, questo si vedeva, ma senza ombra di mortificazione. Un vero Satana, vi assicuro. Alla fine ci disse, pagherò, se è questo che volete. Un gentiluomo paga sempre, pur di evitare una scena. Ditemi la vostra cifra. La cifra fu di 100 sterline per la famiglia della bambina, e anche nelle nostre facce doveva esserci qualcosa che non prometteva niente di buono, perché lui, sebbene chiaramente gli bruciasse, finì per accettare. Ora si trattava di avere il denaro. Ebbene, dove credete che ci portasse, se non proprio lì, a quella porta? Tirò fuori una chiave, riprese Enfield. Entrò e tornò poco dopo con 10 sterline in contanti e il resto in un assegno. L'assegno era sulla banca Couts, pagabile al portatore, e portava la firma di una persona che non posso nominare, benché sia questo uno dei punti più singolari della mia storia. Si trattava comunque di un nome ben conosciuto e spesso stampato. Se la cifra era alta, la firma era garanzia più che sufficiente, purché fosse autentica, naturalmente. Mi presi la libertà di far notare al nostro gentiluomo che l'intera faccenda mi sapeva di apocrifo, perché un uomo nella vita reale non entra alle 4 di notte in una porta di scantinato per riuscirne un momento dopo con l'assegno di un altro uomo per quasi 100 sterline. Ma lui, col suo ghigno impudente, restò perfettamente a suo agio. «State tranquilli», disse. «Resterò con voi fino all'apertura delle banche e incasserò l'assegno personalmente». Così ci rimettemmo in cammino. Il medico, il padre della bambina, il nostro amico e io. E andammo tutti ad aspettare in casa mia. La mattina poi, dopo colazione, andammo in banca tutti insieme. Presentai l'assegno io stesso, dicendo che avevo ogni ragione di sospettare che la firma fosse falsa. E invece, niente affatto. L'assegno era genuino. «Ai ai», disse Utterson. «Vedo che la pensate come me», disse Enfield. «Sì, una brutta storia, perché il mio uomo era uno con cui nessuno vorrebbe avere a che fare, una vera anima dannata. Mentre la persona che firmò l'assegno è di onore specchiato, celebrato addirittura, oltre ad essere, ciò che rende il caso anche più deplorevole, una di quelle brave persone che fanno del bene, come suol dirsi. Ma, ricatto, suppongo. Un onest'uomo costretto a pagare chissà quanto per qualche leggerezza di gioventù. Perciò, quando penso alla casa dietro quella porta, ci penso come alla casa del ricatto. Benché neanche questo, sapete, basti poi a spiegare tutto». Concluse con perplessità e restando poi pensieroso. Da questi pensieri fu distratto poco dopo dal suo compagno, che gli chiese piuttosto bruscamente: «Ma non sapete se il firmatario dell'assegno abiti lì?» «Un posto poco probabile, non vi sembra?» replicò Enfield. «Comunque no. Ho avuto occasione di notare il suo indirizzo e so che abita in una piazza, non ricordo più quale. E non avete mai cercato di informarvi su... sulla casa dietro quella porta?» «No, signore, mi è parso indelicato», fu la risposta. «Io ho sempre paura di fare domande. Mi sembrano troppo una cosa da giorno del giudizio. Si comincia con una domanda ed è come smuovere una pietra. Voi ve ne state tranquillo in cima al monte e la pietra comincia a rotolare giù, staccandone altre, finché un brav'uomo, l'ultimo a cui avreste pensato, è colpito in testa nel giardinetto di casa sua e la famiglia deve cambiare nome. No, signore, me ne sono fatto una regola. Più mi pare strano e meno chiedo». «Regola eccellente», disse il legale. «Ma ho studiato il posto per conto mio», riprese Enfield. «Non sembra veramente una casa. C'è solo quell'unica porta e nessuno vi entra o ne esce mai, tranne molto raramente il gentiluomo della mia avventura. Dalla parte del cortile ci sono 3 finestre al piano superiore, nessuna al pian terreno. Queste 3 finestre sono sempre chiuse, ma i vetri sono puliti. E c'è un comignolo da cui esce generalmente del fumo, per cui qualcuno dovrebbe abitarci. Ma il fatto del comignolo non è sicuro, perché su quel cortile si affacciano tante case, che è difficile dire dove una cominci e l'altra finisca». I due continuarono a passeggiare in silenzio. «Enfield», disse Utterson dopo un po', «è una regola eccellente la vostra». «Sì, credo proprio che lo sia», replicò Enfield. «Ma nonostante tutto», continuò il legale, «c'è una cosa che vorrei chiedervi. Vorrei sapere il nome di quell'uomo che calpestò la bambina». «Beh», disse Enfield, «non vedo che male ci sia a dirvelo. L'uomo si chiama Hyde». Fece Utterson. «E che specie d'uomo è, a vederlo?» «Non è facile da descrivere. C'è qualcosa che non va nel suo aspetto, qualcosa di spiacevole, qualcosa di senz'altro detestabile. Non ho mai visto un uomo che mi repugnasse tanto, ma non saprei dire veramente perché. Deve essere deforme in qualche modo. Dà una forte impressione di deformità, benché non si riesca poi a mettere il dito su niente di preciso. La stranezza sta nell'insieme più che nei particolari. No, signore, non ne vengo a capo. Non riesco a descrivervelo. E non per mancanza di memoria, perché anzi posso dire di averlo davanti agli occhi in questo stesso momento. Il legale restò assorto e taciturno, come seguendo un suo filo di riflessioni. Siete sicuro che avesse la chiave? Disse alla fine. Ma come? Chiese Enfield stupefatto. Sì, lo so, disse Utterson. Lo so che sembra strano. Ma vedete, Richard, se non vi chiedo il nome dell'altra persona, è perché lo so già. Il vostro racconto è andato a segno, se posso dire. E per questo, se fosse stato impreciso su un punto qualsiasi, vi prego di dirmelo. Mi dispiace che non mi abbiate avvertito prima, disse l'altro con una punta di rimprovero, ma sono stato pedantescamente preciso, per usare la vostra stessa parola. Quell'uomo aveva la chiave. E quel che è più, ce l'ha ancora. L'ho visto usarla nemmeno una settimana fa. Utterson sospirò profondamente, ma non disse più una parola. E fu il più giovane, dopo qualche momento, a riprendere. Ho avuto un'altra lezione sull'importanza di stare zitti. Mi vergogno della mia lingua troppo lunga. Ma sentite, facciamo il patto di non parlarne mai più di questa storia. Intesi, Richard, disse il legale. Non ne parleremo più. Roberto Pedicini ha letto Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert Louis Stevenson. Regia di Anna Marzetti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.